A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giuseppe, ma che hai fatto? Prima ero un uomo normale, adesso mi avete ridotto tu e quell'abominio di Parenzo. Mi sono ridotto a fare l'imitazione di Donato da Varese. E quando vado in doccia devo pisciare accovacciato. La zanzara mi ha fatto diventare un uomo di merda. Allora, Davide, ti dico subito che il 90% degli ascoltatori della Zanzara, e non solo, ci hanno massacrato, e ti faccio fra poco sentire qualche messaggio WhatsApp, sul sindaco di Cerignola. Cioè, noi ieri abbiamo detto che il sindaco di Cerignola, io sono, sì, continuo a pensarla così, nonostante il fatto che gli ascoltatori dicono «Ah, hai avuto un atteggiamento moralista, non me l'aspettavo da te, rimproverare il sindaco semplicemente perché ha preso a male parole quel ragazzo che si è vantato di essere stato bocciato, eccetera, eccetera». Avevi ragione, stranamente, ieri. Allora, ragazzi, io ribadisco una cosa. Io non voglio essere l'educatore di nessuno e penso che le uniche persone deputate, tranne casi gravi ovviamente, a educare un bambino di 9 anni in questo caso, siano i genitori che mi dicono essere molto incazzati per questa cosa, tra l'altro, per come si è comportato, per come si è comportato il sindaco. Un sindaco che all'improvviso, senza conoscere la storia personale di un bambino, lo prende a male parole per una battuta perché sembra che si sia vantato di essere stato bocciato, secondo me ha fatto una cazzata. Telefono azzurro, mo, sotto accusa. Cerignola, pensasse ai tombini, pensasse ai divieti, ai passi carrai, a queste cose, alle linee blu dei parcheggi, ma non pensasse all'educazione dei bambini. Ma come si permette? Ma come ha umiliato quel povero ragazzo? Ma che scherziamo? Viva il sindaco di Cerignola! Finalmente qualcuno che glielo dice! Studiate, studiate! Studiate! Viva il sindaco di Cerignola! Grande il sindaco di Cerignola, venisse pure qua a Torbella Monaca a piasti quattro ragazzini del cazzo che girano notte e giorno e non vanno a scuola, li mortacci lui. Cruciani, fuori dal cazzo la Giannini e vogliamo Franco Metta ministro dell'istruzione. Viva il sindaco di Cerignola e vaffanculo Parenzo! Questo è un piccolo assaggio, David, sì, un piccolissimo assaggio. Queste scimmie. Ma è scimmie, che gente che la pensa diversamente da te. Adesso. Sono delle scimmie che riescono, perché gli ascoltatori sono tantissimi, straordinari, bravi e intelligenti. Ma perché adesso, in questo caso, veramente mi fa... La differenza è che tra gli ascoltatori ci sono alcune scimmie che hanno imparato l'uso del telefono mobile e sentendo tu che dici 800 24 00 24, anche la voce zanzara, così, ecco, si è infatti sono soprattutto maschi, queste scimmie da monta, prendono il loro cellulare arrapati pensando di chiamare con quella straordinaria voce che ci invita a telefonare e a malapena compongono il numero e ruttano. Ma perché, parole. Perché le persone che la pensano diversamente, ma non è vero. Vedi, ad esempio anche Luca Sommi, in questo momento uno degli autori di Viva, mi scrive sì scimmie, bravo, vedi che ma perché, perché siete snob voi, siete snob, gente geniale, che la pensa dice, sì, scimmie ma è scimmie che a mala malapena sanno digitare un numero sul telefono. Ma vai a fare in culo, dai, ma non è così, no, dai, no, ma su, sì, ma non guarda, è così. Lì cosa hai rottato? Vieni qua, a Roma, c'è la porta. Comunque, ragazzi, Franco Metta è diventato un idolo per i nostri ascoltatori e non solo. Franco Metta, sindaco di Cerignola. Scusa, sì. Io ho detto ai bambini. Sì, che hai detto? Siete stati tutti promossi? E tutti i bambini mi hanno detto di sì. A questo punto il bambino sì. ha detto in dialetto e sì. con atteggiamento spavaldo, quasi se ne vantasse. Sì. Io sono stato bocciato in dialetto gay e straight butcher. A quel punto io in dialetto, sì. per adeguarmi al suo linguaggio, gli ho detto che se continuava a non studiare sarebbe rimasto un cazzone. Cioè, tu capisci, no? Uno che dice sarebbe rimasto un cazzone a un bambino di 9 anni. E dai, e dai, su, ragazzi. Ma come fate a pensare? Perché voi avete quest'idea del rimprovero, no? Questi che ci hanno chiamato, l'idea del rimprovero, bisogna dare le bastonate a questi ragazzi che si permettono di vantarsi della bocciatura. Io conosco pieno, è pieno di gente che è stata bocciata, rimandata e poi sono diventati dei geni, hanno avuto successo nel lavoro. Ma che cosa dite? Che cosa dite? Ma vedi, ma infatti questi qui ha ragione Sommi, quando mi scrive un umanesimo straccione, mi ha scritto adesso, umanesimo straccione, dunque... giustamente scimmie. Ma questo, che scimmie, ma siete quelli sempre... che chiamano l'ha definito umanesimo. Senti, senti, senti ancora Metta, che comunque è un idolo, eh. Sempre il numero uno, sto Metta, perché comunque a viso aperto, ha sfidato tutti a viso aperto le critiche. Si deve spiegare che non è così che si fa. E gli dice se non studi ti spezzo le gambe. Dai, su, Franco. Ma dai, ma che cazzo gli ho detto? Ma che cazzo gli ho detto? Che cazzo gli ho detto? Ancora, ancora, Metta, numero uno. Intellettuale della Magna Grecia. Ma è diverso, adesso ma è diverso. Fare tutti i professori. Sai lo cosa scrivono? È un fatto mio istintivo, mi sono Franco, Franco. Che me ne frega a me del bambino? Come che te ne potevo frega? Potevo fare i cazzi miei mentre li stavo facendo, stavo festeggiando un parco giochi che andavo a inaugurare, che me ne fosse a me del bambino. Ognuno se ne strafosse di questi bambini e poi si lamentano quando se li trovano sulle pagine dei giornali che fanno reati. Cioè, a me fa impazzire una cosa, su questo devo dire la verità, sono d'accordo con Parenzo, mentre ieri ho battagliato a lungo con Telese, poi perché voleva dare una medaglia al sindaco, ce l'abbiamo richiamato, no. Gli ha dato una medaglia, sì. Telese. Cioè, l'abbiamo, ti giuro, adesso te lo faccio sentire. È fra la poco. Prima volta che non sono d'accordo con Lucchino, strano. Vabbè, ma succede, per fortuna nella vita. Perché secondo lui ha fatto bene, secondo lui ha fatto benissimo, cioè ha fatto una, cioè si è dimostrato un grande, si è dimostrato, capito? È così. Cioè, ma che è successo a Telese? Beh, è diventato un po' di destra, che te devo dire? Cioè, ma perché che non, no, so, non lo so, adesso lo chiamo, ma che chiamalo, che te frega? No, lo chiamalo, il telefono. No, ma la cosa incredibile non è che poi si stupiscono se fanno i reati, ma te, insomma, tu fai il sindaco, non fai l'educatore, non fai il maestro, appunto, non fai, fai il poliziotto. Che ti frega se uno dice di vabbè, gli devo dire ragazzo, ma bisogna essere promossi, bisogna studiare, basta, poi lascialo ai genitori, lascialo ai maestri, lascialo alla scuola. Pronto? Luca Telese, la Zanzara, siamo qui e voglio dare una medaglia a questo sindaco metaforica perché oggi tutti gli tirano addosso, rischia, ma ha avuto il coraggio, la forza di capire istintivamente che un messaggio sbagliato andava corretto. Sindaco! Oh, finalmente qualcuno che mi capisce! Allora, Luca questo, Telese, questo è Telese, 100 che... anni di vita! Vabbè! Ma lo sai che io sono profondamente annoiato da questa cosa delle dimissioni di Alfano? Cioè, sì, dimissioni. La notizia è un'altra di questo italiano sì. che ha massacrato e ucciso. Qual è la notizia, scusa? Ah, la notizia di oggi, che mi meraviglio che nessuno abbia ripreso con la dovuta attenzione, e quelli di Radio Padania, i Salvini, perché sono tanti i Salvini, questa gentaglia qua, di fronte a un episodio di cronaca gravissimo. Che è successo? Come quello che di un successo? Italiano che ha dato della scimmia alla moglie di un migrante, è un episodio che è avvenuto a Fermo. Sì, Marche, questo sì. ragazzo immigrato di 36 anni che arricchisce le nostre città, arricchiva le nostre Vabbè, città. Allora? È stato massacrato, come direbbe tanto da Varese, massacrato l'immigrato, l'immigrato, da un italiano. Dove siete, amici, amici della cosiddetta Padania, amici giornalisti del Libero, del giornale Sondritute, a raccontare questo episodio? Quando l'italiano massacra, come fa quello lì, quel Donato, massacra, quella voce così schifo, come fa quello lì? Così, così. Ecco, dove sono questi? Vabbè, però si parla pure delle dimissioni di Alfano, cioè ne parlano i giornalisti in realtà, delle dimissioni di fronte a questa cosa qui, chiunque avrebbe costruito centinaia di trasmissioni, fosse avvenuto il contrario. Sì, quello è vero. Centinaia di telefonate. Però non sappiamo ancora come sono andate veramente le cose. Di messaggi, scimmia, immigrato reagisce per difendere la propria compagna. E viene massacrato a sangue. Italiano. Viene pestato a sangue. Lo massacra di botte. Allora, ovviamente l'opposizione chiede le dimissioni di Alfano per tutte le intercettazioni, il fratello, le raccomandazioni, le poste, eccetera, eccetera. Io devo dirvi una cosa, queste questioni giudiziarie mi annoiano profondamente. Per me Alfano è già abusivo, cioè, capito? È già abusivo. No, ma che c'è, ma non come si no? Deve come no? È già abusivo. Per me già non si deve dimettere a prescindere. Non è abusivo. Non perché si deve dimettere da niente perché non è. Cioè, secondo te un partito che non esiste, eletto per fare l'opposizione, che fa il ministro. Io l'ho sempre detto questa cosa qua. No, infatti non c'entra niente. Ho detto, a me l'inchiesta non interessa, uno certo, se non è coinvolto direttamente, non si deve dimettere. Dunque, le dimissioni sono una puttana. Ma per me. Cosa vuol dire? È un libero Parlamento, è nato un partito in Parlamento. Per me è un ministro abusivo. Questo chiama. Abusivo di che cosa? Scusa Alfano, con chi è stato eletto in Parlamento? Con chi è stato eletto? Con Forza Italia. Oh, benissimo. Dov'è Forza Italia adesso? Dov'è Forza Italia? Forza Italia al momento sta all'opposizione. È all'opposizione, benissimo. Per me occupa abusivamente insieme alla sinistra di Renzi la poltrona di ministro all'interno. Per cui, secondo me, già è abusivo in partenza. Non mi interessa. Non c'entra niente rispetto all'oggi, non c'entra niente. No, ma non c'entra nulla. Per me, dunque, le dimissioni di Alfano sono. Sì, ma sono. Infatti, sì, esattamente. Per me è un non problema questa questione giudiziaria. Non è coinvolto direttamente, pare, ma c'è il fratello, eccetera, altri parlamentari dell'NCD, eccetera. Per cui non è quello il problema. Si attaccano a questa cosa qui, ma non c'entra assolutamente nulla. Per me c'è già un difetto in partenza, questo vabbè. Dico. Oh, vabbè, vabbè, un cazzo. Sì. Traffico veocilare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, cominciamo. Intanto vi faccio ascoltare una cosa durissima contro Napolitano, ma non è novità, da parte di Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it. Che Renzi non ascolti Napolitano, che è un voltagabbana, che per tutta la sua vita ha cambiato casacca, da prima da fascista, comunista, stalinista, poi craziano, poi Napolitano. Napolitano è uno è il simbolo della classe politica inefficiente di questo paese e non può diventare un faro in materia di riforme. Sì. Allora, Roberto da Foggia, vai. Intanto mettetemi l'annuncio sul numero di telefono, ragazzi, dai, forza. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Roberto, vai, Roberto, dimmi. Pronto, mi senti? Sì, ti sento, vai. Ciao. Senti, allora, ti volevo dire che il sindaco di Cerignola è un grande. Sì. Perché... Tutti a dire che è un grande, ma perché allora, è un grande? Sì, perché? Ti spiego. Allora, dovreste venire un po' nelle scuole elementari qua della provincia. Soprattutto allora, della provincia. Per scoprire cosa? I bambini sono assassini, sono dei delinquenti, sono micro delinquenti che se non vengono bastonati da piccoli poi crescono come... E allora arriva il sindaco, dice che gli insulti sono educativi, dirgli testa di trimona là che gli ha detto... Sì, perché allora nel suo concetto parlare in dialetto e esprimersi in quei termini con il bambino è più semplice da farsi capire, anziché dire tu sei no, stato No, va bene, po'... lasciamo perdere il dialetto, Roberto, il punto non è il dialetto, il punto è che questo sindaco ieri ci ha detto in maniera molto serena, molto tranquilla, che lui del bambino non sa nulla. Cioè non sapeva niente, non è che sapeva, non sapeva, sì, non sapeva niente, non sa chi sono i genitori, non sa nulla. Ha sentito una parola, l'ha interpretata come un elogio della bocciatura, bocciatura è andato bravo. Giù duro lì, cazzone, e ti spezzo le gambe se non studi, eccetera, sì, eccetera. Dopodiché poi, ragazzi, fate come volete, oh, se qualcuno di voi... dovreste farvi un giro qui. Ma okay, non è che sono tutti delinquenti, i bambini, ci saranno pure i bambini delinquenti. Guarda, allora, Cerignola è una città abbastanza critica, non... Cioè in mano ai delinquenti, dici, bambini nelle scuole di 9 anni sono tutti delinquenti. Cerignola, Foggia, San Severo... Vabbè, ho capito. Ciao, ciao, Andrea, ciao, Ferrara, ciao. Vai, Andrea. Ciao, ciao. Dimmi, dimmi. Ciao a tutti. Allora, io quello che posso dire è che il sindaco non ha fatto né bene né male. Né bene né male, che cazzo ci frega? Che vuol dire né bene né male? Dai, forza, ragazzo, dai. Allora, aspetta un secondo. Ma aspetta un secondo, allora, cosa? Ma dico, aspetta no, che... No, non può essere fatto bene o fatto male. Il mondo non lo divide in due parti come una mela. Ma che... Ha fatto bene o ha fatto male, Andrea? Ha fatto bene nella misura in cui... Nella misura in cui... Ciao, arrivederci. Stefano da Milano, vai, Stefano. Pronto? Ma adesso pure su questo ci sono i distinguo. Cioè, distinguo... Questo è sì o no? Ha fatto bene o ha fatto male? No, il distinguo è arrivato. Andrea da Ferrara, ma vattene, va. Stefano, vai, dimmi. Volevo difendere meglio Fede a spada tratta. Ah, per la storia degli 8.000. Comunque, questo è uno che ha fatto direttore di giornale, telegiornale da 50 anni. Ma non è che nessuno dice che ha rubato quei soldi della pensione. Soldi privati, peraltro. Soldi privati, può piacere o non piacere. Ho capito, ma piangi miseria. Ma no, non è piangere miseria. Comunque uno che è stato anche nei suoi standard, comunque 8.000 euro sono anche pochi in centro a Milano, Ma ragazzi, a parte che non è in centro a Milano 2, ma è un'altra cosa. Ma 8.000 euro e piangi miseria, dice che non arriva. Cioè, mi volete mangiare, mi volete mandare a raccogliere la spazzatura. Ma dai, su. Comunque, se vuoi frequentare i ristoranti che frequentava prima, io comunque lo vedevo in giro. Ma perché deve. Scusa, quando uno arriva a una certa età, il tenore di vita a un certo punto deve cambiare per forza. Ha fatto 30 anni questa vita. Sì, ma non piangi miseria, no? O no? Non piangi miseria, però è dura. Comunque gli standard sono alti. È dura. Ma che è dura, ragazzi? 85 anni. Ma che è stato un direttore. Dai, è stato a 85 anni, 8.000 euro. Ma sai la gente a 85 anni che ce n'ha 1.200, 1.300? Dai, poi un'altra cosa, 700. Ma ragazzi, su. Rispetto a chi? No, non può dire un cazzo. No, Marco da Treviso, dai. Sì, buonasera a tutti. Stefano mi ha anticipato. Effettivamente volevo intervenire anch'io in merito alla questione di Emilio Fede. E vi è rimasta molto impressa sta storia degli 8.000 euro. Volevo intervenire ieri, ma non ho avuto. Vabbè, vai, dimmi che me frega ieri, oggi, vai. No, appunto. Però, ecco, come diceva appunto Stefano, sì, non capisco tutta questa veemenza come altri ascoltatori hanno detto. Ragazzi, però Fede. È abbastanza chiaro. Se uno piange miseria dicendo 8.000 non ci arrivo là, però, ma cambia stile di vita, signore, no? Invece dall'autista, via il taxi, non lo so, risparmia su qualcosa, invece di andare al ristorante da 100 euro. Dai. Certo, ma perché in Italia... L'altro giorno ha chiamato un amico suo, dice c'è qua Fede che ti vuole salutare. Dov'è? Al ristorante Antonio da Napoli sul lungomare. Sai quanto costa quel ristorante là? Vai a fare un controllo, vai. Bisogna vergognarsi per quello che si ha, perché mi domando io. Che ma no, uno non si deve vergognare, che c'entra? No, chi ha detto? No, capito, ma già l'invidia è una brutta bestia. Quelli che proprio con tono intervenivano con questa veemenza contro Emilio Fede, ti devi vergognare, così che si sentiva anche ieri. Ma perché si deve vergognare Emilio Fede? Cioè, io voglio dire, posso vedere in giro gente che sta meglio, però non è che devo inveire contro di loro, perché l'invidia è... Ho capito, gente invidiosa. Non è invidia, non è questione di invidia solo, dai. È questione che uno non può piangere miseria, e se piangi miseria cambi stile di vita. Esatto. Cambi stile di vita. Carlo, vai, Milano. Sì, io volevo chiedere al buon Parenzo se ritiene che Gramellini sia una scimmia. Perché? Perché anche Gramellini... Che hai fatto? Che è sto suono? Dove sta? Gramellini ha fatto un bellissimo intervento sulla stampa, un corsivo, nel quale ha difeso il sindaco di Cerignola. Quindi non solo le scimmie lo difendono, per cui no, Parenzo scimmie... ci ripensi. Le scimmie sono quelle che con quei modi brutali, aggressivi e violenti, dialetticamente violenti, telefonano e lasciano messaggi su un mezzo che non conoscono, che è una segreteria telefonica. Sul contenuto di merito sono delle scimmie. Voi, Gramellini, ma che scimmia? Quando nel mai? Nel caso ho letto l'articolo, posso dire umilmente di non essere d'accordo con Gramellini. C'è quest'idea assurda che un sindaco ha fatto bene a reagire selvaggiamente, perché di quello si tratta, contro un bambino, semplicemente perché questo bambino ha detto, si è forse vantato della sua bocciatura. Follia allo stato puro. Comunque, se vi piace un sindaco così, va benissimo, per carità, è anche un mito da un certo punto di vista, perché parla chiaro, perché non è uno che poi si nasconde dietro le cose che ha detto, le rivendica, da questo punto di vista niente da dire. Però per me ha fatto una cazzata. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Sono Enrico Ruggeri e anche questa settimana ho delle storie molto interessanti a Il Falco e il Gabbiano. Uno sportivo che ha cambiato la storia del mondo, Mohamed Ali, e noi raccontiamo sua figlia che fa la pugile come il padre e non perde neanche un incontro. Ha vissuto la storia del rock dallo stesso palco di Jimi Hendrix, Noel Redding. Una vita libertina e dadaista, la baronessa Elsa von Freytag Loringhoven. Ha inventato la suspense nel cinema, ma è sempre stato un uomo di fine umorismo, Alfred Hitchcock. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Per noi ascoltatori e per la nostra salvezza, discese dall'etere. E per opera di Radio 24 si è incarnato nel microfono della Zanzara e si è fatto conduttore. Fu crocefisso per noi sotto i nazi vegani, morì e fu sepolto. Ma di nuovo verrà, in diretta, per la gioia di noi fedelissimi, e il suo programma non avrà fine. Amen. A pelle, a pelle, caro Davide, a pelle, mamma mia, a pelle, a pelle. Allora, vogliamo parlare un attimo del nostro amico cittadino, senatore Giarrusso? Sì. Ne vogliamo parlare un attimo, semplicemente un attimo? No, perché ovviamente a me mi sta pure simpatico Giarrusso. Moltissimo, per anch'io non voglio avere però i soliti trolls che mi scrivono poi invettive perché uno parla male dei 5 Stelle. Esatto, per noi, per noi... io difendo Giarrusso questa volta, ma non perché non voglio avere i nemici. Ah, perché sei a favore dell'immunità, perché sei a favore dell'immunità tu. Sì, bravissimo, io ho però in questo riconoscerai che ho una coerenza, se tu racconta l'episodio. Sei completamente pazzo, posso dire che sei... su questo riconoscerai una coerenza, perché ho sì, sei anche coerente, ma essere a favore oggi dell'immunità sì, parlamentare anche del finanziamento pubblico ai partiti, come pensate? Cioè tu difendi il fatto che se un senatore dice testa di cazzo a qualcun altro e poi sostiene sì. che è nelle sue funzioni di parlamentare sì. deve essere sì. difeso dal Parlamento, cioè non sì, deve essere processato. Vorrei avere anch'io quello scudo, perché quando manderò a quel paese le scimmie che chiamano sì. voglio avere anch'io quello lo scudo della Zanzara, dici, lo scudo, esatto, lo scudo della Zanzara. Perfetto, ma questo perfetto. Già ce l'abbiamo, no? Lo scudo, la Zanzara scudo? Già ce l'abbiamo, sì. Ma che scudo? Beh, in parte sì, in parte sì. Abbiamo querele che piovono, sì, è vero. Ieri mi hanno notificato un'altra roba, non ho ancora capito. Ma che cazzo ci frega, la vita sono è fatta. Sono dovuto andare dai carabinieri a Roma ieri perché non mi hanno trovato a casa la mattina. Sono andati due carabinieri, non te l'ho neanche raccontato. No, non me l'hai raccontato. Infatti no. Adesso se la Malavenda, che l'avvocato ascolta, sì. Adesso gli verranno notificato. Ma che volevano? Chi è stato che ti ha querelato? Ma come che volevano? Per una vicenda legata a quel Donato Davarese, Donato Ricci ancora. Sì, Donato Ricci. Continuano sì. a notificarmi a casa dei provvedimenti. Io ieri ovviamente ero al lavoro. Sono preso i due carabinieri in divisa. C'era il mio portiere che era... Ma il dottore, ormai è abituato. Ma dottore, cosa fa? Dico, sono arrivati i carabinieri e hanno chiesto di come i carabinieri? Sì, hanno lasciato nella cassetta della posta il... Sì. Dice, si venga urgentemente qui. Sono andato urgentemente lì. Sembrava mi hanno notificato per un errore di procure sì. di nuovo lo stesso avviso di indagine su. Comunque ragazzi, la cosa incredibile è che il signor David Parenzo è a favore dell'immunità parlamentare sì, che è una cosa schifosa. Ma dell'immunità in generale. Sì, vabbè, ho capito, sì, in particolare dell'immunità parlamentare. Cosa è successo? Il senatore cittadino Giarrusso ha detto una volta sul blog di Grilla una deputata, credo, del Partito Democratico che si chiama Greco. Bravo. Ha detto, ha accusato questo deputato, questa deputata, come cazzo vuol dire la Boldrini, di contiguità con ambienti mafiosi. Cioè uno ti dice hai contiguità con ambienti mafiosi, questa giustamente si è incazzata e l'ha querelata. Dopo magari il giudice dirà che Giarrusso ha ragione, che si può dire una cosa di questo tipo. Lui però non si fa processare, non si fa processare e chiede l'immunità parlamentare. Certo. Chiede ecco. l'immunità parlamentare. Ragazzi, tutta questa roba qua bisogna dire che è assolutamente incoerente. Assolutamente incoerente. A me mi sta simpatico Giarrusso, ma non può sostenere come ha fatto che una cosa è essere contro l'immunità per altri reati, una cosa è per le per i reati di parola. Ma che cosa vuol dire? O sei a favore o sei contro l'immunità. O la vuoi togliere o la vuoi mantenere. Io mi ricordo un meraviglioso scontro, credo, alla trasmissione di Formigli, no? Sì, sentiamo un po', politica. Sentiamo un po'. Tenevo anche che fosse la sua risposta. Ma lei le pare che io possa pensare pensare che il Presidente del Consiglio è un mafioso? Lei pensa che io possa pensare una cosa del genere? Lungi da me farlo, infatti per questo è evidente grato... che io prendo le stanze. Dopodiché, in diretta, un esponente politico, purtroppo, voi vi dovreste levare l'immunità. Così, queste cazzate, scusate il termine, non le dite più. Levatevi l'immunità, fate una bella legge, così quando uno dice una cazzata del genere, l'altro lo querela e paga, come paghiamo noi giornalisti quando diciamo le fregnacce. D'accordo, grazie. Allora, qui Formiglia aveva perfettamente ragione, si rivolgeva a Taddei, che peraltro uno del PD che non è affatto deputato, e c'era anche Di Battista collegato, ma è un discorso che può valere per tutti. Cioè, se io dico una cazzata vado a finire in tribunale, giustamente, poi ci sono gli avvocati, eccetera. Se la dice un deputato, no, perché è deputato. Dai, è una minchiata questa roba qua. Se tu dici a qualcuno sei un figlio di puttana, non è che puoi sostenere io sono in Parlamento e allora ho bisogno di uno scudo perché altrimenti non sono libero di parlare. Ma che vuol dire? Non vuol dire nulla, dai. Poi voglio dire un'altra cosa. Come sai, Gianluigi Nuzzi, autore di Vatilix e di altri libri, hanno chiesto per Nuzzi, credo, un anno, no, di prigione. Un anno di prigione. Fittipaldi, che l'altro collega invece ha assolto. Assolto. Credo che la sentenza ci sarà nei prossimi giorni. E dopo... la Ciauchi e quell'altro. La Ciauchi ha mandato un messaggio, hanno scoperto un sms pazzesco della Ciauchi a Baldà. Ma lasciamo perdere queste robe qua. E hanno chiesto un anno a Nuzzi. Hanno chiesto un anno per Nuzzi. Allora io dico una cosa, io dico solo una cosa, amici miei, solo una cosa. Salvate Nuzzi. Sì, vabbè, ma al di là di salvate Nuzzi, mi pare. Tu lo sai qual è esattamente il reato? Tu lo sai qual è esattamente il reato? Sarà quello di aver trafugato. No. È il concorso morale nella divulgazione dei documenti attraverso l'impulso psicologico, con la loro presenza e disponibilità, ha contribuito a rafforzare il proposito della rivelazione delle notizie. Cioè, il reato è questo. Il concorso morale, l'impulso psicologico, la disponibilità a rafforzare il proposito della rivelazione delle notizie. Allora, io dico una cosa, ragazzi. Il Vaticano copre molto probabilmente riciclatori di denaro. Il Vaticano copre i pedofili. L'ultimo è il signor Don Inzoli. Hai mai visto un processo per pedofilia Vaticano? Molto bene. Il signor Don Inzoli, Don Mercedes, che è stato processato dalla procura italiana e non dai signori della procura del Vaticano, perché per anni il Vaticano ha occultato le prove e non le ha trasmesse ai tribunali italiani. Io dico una cosa, chiedono un anno e poi occultano le prove sulla pedofilia, ma ti pare normale una cosa del genere? Ti pare normale che chiedono un anno per Nuzzi, eccetera, eccetera, e poi non fanno un cazzo sulla pedofilia, non c'è un processo fatto dentro il Vaticano sulla pedofilia? Vergogna, vergogna, vergogna! Adesso non per difendere Nuzzi, non è che il discorso vale per Nuzzi come vale per altre persone. Ma no, ma è chiaro, va bene. Dai, Nuzzi non è che è stato condannato. Fanno un processo per concorso morale nella divulgazione dei documenti a Nuzzi. Si fosse mai visto un processo contro Vaticano, riciclatori di denaro, preti pervertiti, preti zero, mai visto un processo. Ma noi dal paradiso che stiamo ora abrogando con un referendum, noi radicali pannelliani in paradiso. Ma come, diciamo, in paradiso, scusa? Pronto. Come in paradiso, sono Pannella. Ah, Marco, ciao, stiamo, come stai? Stiamo raccogliendo le firme per abolire il paradiso, intanto, con delle firme, perché il paradiso non serve. Ma come, che c'entra? L'abbiamo abolito con un referendum che gli italiani e non tutti quelli che vivono in paradiso. Come si fa a raccogliere le firme in paradiso? Si gira con dei banchetti radicali fatti di nuvole e si firma con delle saette divine e si raccolgono le firme. Qui sono tutti, questo signore che esce. Io gli ho detto, lei chi è? Dice, io sono il signore. Ma quale signore? Il signore è radicale se crede nel diritto della... Comunque ho sentito parlare di questa condanna di Nuzzi. No, condanna noi ancora, diciamo, no, hanno chiesto. Noi diciamo, Nuzzi libero, vieni con noi. Cioè, vieni con noi, non in paradiso, ma libero dal Vaticano, ho parlato con questo signore. Ma il signore, signore è di Dio, è sì, con me, è questo signore. Eh beh sì, è in paradiso, sì, certo. Si va a chiamare signore questo signore. Ma, che vuoi, ma lei filma, quante film hai raccolto? Ha detto che il Vaticano deve essere abrogato. Lui ma no, ha provato a non dirlo. È possibile. Lui non aveva mai scritto a San Pietro, fate San Pietro. Okay, questa... aveva detto fate la chiesa dei poveri, dei liberali, dei radicali. Beh, ha detto non posso passartelo ora, beh, lo passerò a Bordin, a Radio Radicale, Radio Paradiso. Ma vabbè, ha detto ciao, Marco. Questo signore che è qua, ciao, sia la legalizzazione delle droghe. No, non è possibile, non può averlo detto. Ha detto lui che qua si fuma benissimo, qua sopra si fuma benissimo. Si fuma appunto da Dio, si dice, è una formula che si usa. Vabbè, vedo che parli anche da Marco, parli anche tanto in paradiso, eh. Non è cambiato un cazzo in paradiso, raccoglie le firme, parla a rotta di collo, bisogna fermarlo. Davide Pescara, vai. Ciao, buonasera Cruciani. Dimmi Davide, dimmi. Allora, volevo dire qualcosa, la mia, senza offendere nessuno. E senza su che cosa? Su che cosa? Su quanto riguarda il passaggio dell'italiano all'extracomunitario, sì, all'italiano, sì, all'italiano. Sì, sì. Allora? Allora, per me gli hanno fatto poco, perché io... Al come gli hanno fatto poco? Scusami. Fammi finire di parlare. Chi è questo? Allora, io oltre a pestarlo, l'avrei anche messo dentro una vasca con centinaia di litri di ammoniaca. Ma perché, scusa, ma spiegami. Questo? Perché questa centaglia devono andare a casa loro a stuprare, a rubare, ma perché noi già abbiamo tanti... Come? Ma lei scusami, scusami amico mio, ma le notizie sono un po' diverse da quelle che dici tu. Le notizie riportano che... Ma io sto facendo una cosa generale, può darsi pure che ho sentito una cosa, ma io parlo anche di stupri... Sì, ma in questo caso, un tizio è stato pestato. È stato pestato perché ha risposto. A dei ragazzi, a dei deficienti che avevano dato della. Avevano detto qualcosa alla sua fidanzata, capisci? Hai capito o no? Cruciani, ho capito perfettamente. Ho capito, tu dici che hanno fatto bene, hanno fatto pure poco, lo devono bruciare vivo. Ma io faccio un discorso generale. Ma del generale un cazzo! Ma che generale? Di che? Ma perché hanno fatto bene? Spiegami perché hanno fatto bene. Perché devono stare a casa loro, se ne devono andare a fare in culo dall'Italia, non ne possiamo più di questi indiani. Indiani che veramente non sono indiani, ti segnalo che non sono indiani. Gli uomini fischiano, cagano, fanno quello che cazzo vogliono loro e noi gli diamo pure 45 euro al giorno per tenerli in Italia. Veramente sono un po' di io meno. Non... Davide, non ho capito una cosa, questo qua è in coma adesso, questo signore, Emanuele. Ma deve morire entro stasera, se così imparano. Vabbè, passi all'azione tu, che fai? Davide? Ma che schifo, ma cosa vuoi fare? Ma prendiamo giù il numero di telefono, segnaliamolo immediatamente a qualcuno. A chi lo devi segnalare, scusa? Ma uno che dice che andava ucciso, messo in una roba, guarda, ma segnalato all'autorità competente. Ma quale autorità competente? A manicomio, non a quella che... Ma ci sarà anche un'autorità competente che si occupa di lui, un magistrato, o devono notificare solo a me gli avvisi, perché uno... Allora, scusa, Davide, questo qua lo hanno ammazzato di botte, questo nigeriano, capito? Minaccio, parezzo, io no, lei è talmente scimmia che non ha neanche capito l'episodio che è avvenuto a Fermo. Un italiano ha preso per televisione, è un complimento. Tu sei un cretino. Un italiano, un ultras per l'esattezza. Fermi ragazzi, sbagliato. Davide, resta lì. Tu sei nato dal culo, nano. Vabbè, ho capito, Davide, adesso resta lì perché altrimenti ti denuncio se te ne vai. Adesso me la dici tutta, cioè mi svuoti tutto quello che pensi, tutto quello che c'hai in quel cervello bacato, fermo. Brucida. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da... Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La Zanzara. Anche io penso solo alla Zanzara, non me ne frega più un cazzo di moglie, casa, tasse, multe, non pago più niente. Io voglio ascoltare la Zanzara, voglio crepare ascoltando la Zanzara. Bene, bene così, caro Parenzo. Allora, dopo, sarà accontentato. Dopo ore di agonia e di coma, il signore di 36 anni, richiedente asilo nigeriano, è morto qualche ora fa, non avevo controllato le ultime notizie. Massacrato solo perché stava difendendo la sua moglie, da un gruppo di persone. Chiamata scimmia da un gruppo di ultras, di italiani. Che vuol dire, ha donato. Dillo di italiani. Davide, sei contento che è morto, mi sembra, no, Davide? Guarda, Cruciani, forse non ci siamo capiti. Ci vediamo in tribunale. Aspetta, non sono scappato, quindi non è che... Ci siamo capiti e ci vediamo in tribunale. Senti, Parenzo, vediamo se viene a ripetere le cose che hai detto in radio. Senti, Parenzo, prima di chiamare, ci vediamo in tribunale, coniglio. Vediamo se ripeti le cose che hai detto in radio. Lo vedi come offendi? Non offendo nessuno. Ascoltami la registrazione. Ripeti in tribunale quello che hai detto. Tu hai offeso prima. Dimostralo al giudice. Non fare il buffone dietro un telefono. Non ho capito. Non ci voglio parlare con te. Tu devi andare a fare in culo. Quando entri qua dentro parli con tutti. Davide, io non ho capito una cosa. Okay. Ripeti quello che hai detto, se hai coraggio. Tu sei contento che questo signore è morto, dillo. No, aspetta, troppo facile adesso. Dimmi. Fammi parlare, Cruciani. Io ti conosco via televisione, via radio. E sinceramente ti ammiro come giornalista. Vabbè, ma quello non c'entra niente adesso. Cosa c'entra questo? Tu hai esordito dicendo una cosa, troppo poco quello che hanno fatto questi allora, qua. Certo, non lo nego, l'abbiamo sentito. Aspetta, io non mi ritiro le parole. Cioè, avete le registrazioni telefoniche come ce l'ho io, perché io mi sono cautelato con il mio avvocato. Ma cautelato, abbiamo chiesto che cautelato di che? Qual avvocato di che cosa? No, perché lei ha sempre detto che questa è una trasmissione dove si può dire di tutto. Ma certo, sapete, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, ma non è che puoi dire quello è un coglione, quell'altro è una testa di cazzo. Se qualcuno si offende, va in tribunale. Se quel signore che c'è a fianco, se signore lo vogliamo chiamare... Sì, ma tu stai spostando il discorso. Perché hai detto che è troppo poco quello che hanno fatto? No, stai spostando il discorso, Davide. No. Io se sono andato in bestia perché sono stato chiamato scimmia io e milioni di italiani da prima che è iniziato il programma. Davide, dimmi una cosa, lascia al di là di scimmia. Quello che diciamo noi sono stronzate. Davide, perché sei contento di quello che hanno fatto a questo signore? Perché? Io sono contento perché questa è una realtà da buttare fuori dall'Italia. No, veramente è morto. Mia figlia. Ma vabbè, hanno palpeggiato tua figlia e ho capito. Ho fatto la denuncia e compagnia bella e non mi far dire altro. Ma lascia perdere. Davide. Allora io ho fatto un discorso generale. No, tu non hai fatto un discorso generale. Tu hai fatto un discorso. Hai piacere? Sì. Hai piacere che è morto? A casa sua. Certo, ma che vuol dire ognuno a casa sua? Non vuol dire niente. Queste persone, questi zingari, questi devono andare fuori dall'Italia. Questo era nigeriano, non zingaro. Ho capito, non ma questo... zingaro, quello, tutto nel buon faccio. Tutto nel buon faccio, benissimo. Allora, praticamente dei signori chiamano scimmia una ragazza, questo reagisce. Sono stato chiamato pure io scimmia dal tuo collega. Io non reagisco perché l'hanno ammazzato. Io la penso così. Vi volete denunciare? Denunciate. No, io non denuncio nessuno, a me non me ne frega niente. Io sono un razzista, sei pure un amante di Mussolini. Sì, io sono fascista nero. Bene, è tutto materiale probatorio che verrà portato. Materiale probatorio di che c'entra materiale probatorio? Io la penso così. Verrà tutta questa registrazione ascoltata dal magistrato e lei ripeterà. Ma quello che cazzo ti pare? Io manco ti prendo in considerazione. Che mestiere fai? Io faccio il camionista. Fai il camionista. Beh. Io conosco tanti camionisti che sono grandi ascoltatori di questa trasmissione. Per carità, va tutto bene, però essere contenti perché uno viene preso, viene pestato e ucciso, uno può dire quello che vuole in questa trasmissione. Non è che significa che è tutto sdoganato, non è perché noi abbiamo messo il timbro, no, Giuseppe, freedom. Sì, ma tu non hai fatto un discorso generale, Davide, ti è scappata la frizione, appunto. Amico mio, dai. Io volevo fare il discorso generale di... Ma non è discorso generale, eri contento? Questi sono prussi che abbiamo noi, non ma che c'entra? Ma tu puoi denunciare quello che vuoi, puoi denunciare quello che ti pare. Io lo dico apertamente, ma tu... non voglio essere chiamato scimmia da un pezzo di merda. Vabbè, ma quello qua di nuovo, nessuno. Benissimo, avanti avanti che ci vediamo in tribunale prestissimo, faremo conoscenza. Ma mi hai ammazzato tu al tribunale, scemo! E continua. Già, io poi devo chiudere perché sono continua, questo... Continua, continua. Che è successo? Questo finisce male. Perché ti manda in bestia? Perché ti manda in bestia? Finisce male, finisce male. Non lo sopporto perché lui è pagato per dire le stronzate. Ti finisce io male. Io vorrei vedere se qualche rom andrebbe a casa sua e finisce male. Qualcuno della sua famiglia. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Finisce male, vecchio mio. Ogni cosa che dici aggrava la tua posizione, hai capito? Ma vai a... aggrava pure questo. Vai a morire ammazzato. Sì, e abbiamo preso nota. Il fascicolo del magistrato sarà corposo. Devo chiudere perché... Quanto vale quel camion che hai? Quanto vale il camion che hai? No, io... amico quello mio, lo portiamo via. No, il camion non è mio. Quello io lo portiamo via e lo regaliamo ai rom, quel camion, vedrai. Io butto il sangue dalla mattina alla sera e non prendo 8.000 euro al mese. Siccome hai insultato e hai detto qualcosa di troppo, perché mi hai insultato e minacciato, di addio al tuo camion e lo regaleremo ai rom. Fai la tua denuncia, io rifarò la mia controdenuncia. Tu, guarda, vista credi che mi fai paura, amico mio. Ciao Davide, ciao. Michele Rovigo, vai, Michele. Ci aggiorniamo in tribunale, vecchio. Ciao, Michele. Buonasera a tutti. Dimmi. Volevo intervenire, appunto, mi dispiace per la morte della ragazza di 36 anni. Però volevo intervenire alla partenza di Parenzio, che comunque non è stato fatto un caso nazionale perché questa persona è stata picchiata. Cioè, non possiamo fare sempre un caso nazionale, appunto, su tutto ciò che comunque riguarda gli extracomunitari. Al contrario, comunque... viene ma in che fatto senso, sempre. Scusa, in che senso? Spiegami. A un mio carissimo amico, nonché testimone di nozze, entrati in casa. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra che sono entrati in casa? Dopo che li hanno addormentati con l'etere. Io non capisco perché, non capisco, Michele, perché tu, di fronte ad un caso abbastanza chiaro, perché non è che qui è un caso controverso. Ora possiamo fare un caso nazionale, anzi, vanno anche arrestati questi. Vanno anche arrestati. Questa, a parte che l'hanno già arrestato, è un ultralocale di fermo. Ma non hanno so. Fatto bene perché comunque una vita non la sì, si ma perché, nessuno, ma perché? Ma perché devi parlare di altre cose? Sì, però aggrediscono anche noi, fanno le rapine in casa a noi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma non c'entra un cazzo, deficiente, non c'entra nulla, deficiente. Ma dobbiamo essere sempre screditati come italiani? Ma cosa c'entra con un caso lampante come questo? Un signore, lascia perdere il suo status, che cos'è? Un signore insieme alla sua ragazza viene insultato per strada, reagisce, non credo che abbia reagito male, avesse reagito male non cambia la cosa, viene pestato, ammazzato e dici no, però rubano in casa gli italiani. Ma vaffanculo, cosa c'entra? Cioè ragazzi, no, non mi fate arrabbiare. No, lo sai come la penso, lo sai come la penso sui rom, lo sai come la penso sull'immigrazione clandestina, e non c'entra niente. Questo è stato ammazzato per, semplicemente perché hanno detto scimmia alla ragazza. Non fate del benaltrismo su cose ridicole. Ammazzare uno dei nostri perché ma è tutto così. Uno io dei nostri, Parenzo, reagisci pure tu, però perché qua ormai le leggi non ci sono più, non siamo più tutelati né noi né loro che uno dei nostri, uno dei nostri ma è morta una persona, cosa vuol dire nostri, miei o tuoi? Zitto Michele, zitto un attimo. Però questa persona, no, non ti dispiace, stai mentendo. Te lo giuro, mi dispiace perché comunque io ho tre extra che ha fatto, che stavi dicendo, ha pagato queste persone pagano per venire in Italia e poi ci sono quattro bastardi di italiani che si prendono i soldi. Vabbe, questo perché che c'entra adesso? Adesso stai cercando una scappatoia alle cose che hai detto. Hai detto due dei nostri, come se ci fosse una contrapposizione tra noi e loro. È morta una persona. Ma sono d'accordo, a me dispiace che questa persona è morta. Vabbè, ciao Michele. Tre ex comunitari che lavorano da me. Ciao, vabbè, adesso si dice sempre la stessa cosa. Ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Parenzo, il mio grande sogno sarebbe pisciare nel tuo lavandino.

Michele? No, sono normale. Sì, dimmi, dimmi, sei amareggiato? Sono amareggiato, come lo visto, non so come mi sento. Non lo so, mi sento umiliato anche io, non so che parola voglio dirti. Sì, dimmi, che mestiere Scusa, io volevo dire soltanto una cosa. Sì, dimmi, dimmi. Se voi fate attenzione al video nella villa, c'è una bambina che dice vicino al sindaco, dice lei è il primo cittadino e dà questa educazione. Lei si comporta in questo modo. Nessuno ci ha fatto caso. Neanche il sindaco credo che doveva un po' riflettere su queste parole di una bambina, una coetanea di mio figlio. Guardi, il sindaco ieri da noi, e anche altrove credo, ma comunque da noi, ha detto delle parole di questo tipo, tutti se ne strafottono dei bambini, poi finiscono per fare i delinquenti, gli ho detto, che gli ho detto mai? Ma che cazzo gli ho detto? Gli ho detto che se continuava così... Allora, io l'ho ascoltato cosa ha detto, certamente io se dovrò andare avanti legalmente non sono io a dire cosa devo dire all'avvocato, lì ci sono tutte le cose che sono state registrate, lì ci sono cose, per me... Quello che sono state dette da persone competenti, da brave persone che mi vogliono anche aiutare, perché mi conoscono come famiglia, come persona. Voi avete avuto un danno da questa cosa? Io un danno, ma gli posso dire la sincerità. Sì. Io ho vergogna di uscire, io da padre. Beh, certo. Lei che mestiere faceva prima? Io sono un bracciante agricolo. Un bracciante agricolo, e da quant'è che non lavora? Io sono da gennaio. E come campate? Andiamo. Aspetta Michele che non ti sento, come campate? I genitori che ci danno da mangiare, non i soldi. I vostri genitori? E anche della Croce Rossa che danno dei pacchi. Cioè i nonni, per i nonni dei due i ragazzi. I nonni danno il caffè, danno un po', vanno a far prendere un po' di carne ai ragazzi, ma non ci manca nulla, la verità. Io sono stato sull'assistente sociale, mi volevano dare 80 euro al mese. Io ho detto, sono una persona che ho detto all'assistente sociale, datelo davvero a chi ne ha di bisogno. Io ho dei genitori che mi aiutano, ho una sorella che mi aiuta, ho la parrocchia che mi aiuta, non ho bisogno. Va bene, Michele, ciao, ti saluto, ciao, ciao Michele. Buonasera, ciao. A presto, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, andiamo a Milano, Antonio, vai, Antonio. Ciao Giuseppe, ciao, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, vai. Perfetto, ok. Il mio intervento voleva essere a riguardo della notizia del ragazzo nigeriano di 36 anni che è deceduto. Sì. Allora, io ho letto attentamente l'articolo che viene riportato su Repubblica.it, quindi un giornale che sicuramente non ha tendenze di destra, e c'era riportata una notizia che... Sì, no, ma ho letto anch'io, Emanuel ha sradicato un palo, cioè quello palo, che è stato poi ucciso della segnaletica stradale, è picchiato l'italiano, facendolo cadere a terra, rialzatosi l'uomo si è scagliato contro l'africano, riducendolo in fin di vita a forza di botte. Secondo altre ricostruzioni, il 36enne è stato colpito ripetutamente e una volta la nuca con lo stesso palo della segnaletica di Velto, entrato in coma, poi espirato. Cioè, tu stai dicendo sostanzialmente che il nigeriano, dopo essere stato insultato, ha reagito troppo violentemente? No, non è questo, è che noi dobbiamo analizzare i fatti. Io penso che anche le forze... No, ma io infatti all'inizio della trasmissione ho detto bisogna vedere come sono andate le cose. Dopodiché, di fronte all'intervento di Davide da Pescara, che era, come dire, felice della morte di questa persona... No, questo è un'assurdità. Si mette a fare... Però tu dici, se è nata una rissa e poi quello è morto, in qualche modo se l'è voluta pure lui, stai dicendo, se l'è cercata anche lui. No, non mi mettere in bocca parole che non ho detto. No, vabbè, io ma adesso sto dicendo che vanno analizzati i fatti. L'altra cosa su cui io rifletto è che questa persona che ha ucciso il 36enne è a piede libero. È stato denunciato a piede libero. Tu dici che se fosse stato chiaro quello che è successo, l'avrebbero arrestato. Bravissimo. Va bene, Antonio, grazie. Andiamo a Firenze, Andrea. Posso dirti un'ultima cosa? Dimmi, Antonio. Dimmi. Su Cirignola. Dimmi. Ma perché nessuno ha cazziato la maestra? Perché nessuno ha fatto il cazziatone alla maestra? Perché nessuno ha cazziato, perché magari la maestra non si è accorta. Ma come? La maestra c'ha in classe un bambino con questi problemi familiari, lo boccia e non gli dà una mano. Ma cazziamo le maestre che non danno una mano ai ragazzini. Vabbè, una mano in che cosa, scusa? Una mano ad andargli incontro, a fargli ripetizioni. Vabbè, amico mio, se uno dovesse stare dietro a tutti quelli che hanno dei problemi. Stanno le maestre di sostegno, paghiamo tante tasse. Vabbè, adesso non sappiamo i dettagli di questa cosa. Dai, Andrea, Firenze, dai, Andrea. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Secondo me è assurda questa cosa del sindaco di Cerignola, vergognosa. Sì. Mi ricorda tantissimo quando gli adulti anche per strada si permettevano di trattare male il primo ragazzino che passava o le tiravano uno schiaffo perché lo guardava solo in un modo che non gli piaceva, cose che fino a 20 anni, 30 anni fa succedevano, mi sono successe a me. Sì. E poi volevo dire una cosa a Parenzo, se posso. Sì, è andato al cesso come al solito, lui prima di andare alla 7 in trasmissione va al cesso, dimmi. Ok. No, però è una cosa seria. Ciao, che gli devi dire? Dopo io lo dico domani, dai. Forso, lui ha offeso, secondo me, i genitori, i bambini, i figli. Perché? Allora, venerdì scorso, se ve l'andate a risentire, quando parlava di Radio Padania, lui diceva che Radio Padania è nata e serve per le persone che hanno dei figli handicappati o dislessici. E io ho un figlio dislessico. Sì, vabbè, ma non lo voleva dire contro i figli dislessici, dai. Però comunque queste cose qua, chiama domani e glielo dice a lui, dai. Ciao. Allora ragazzi, intanto è tornato dal cesso Parenzo. David, io direi di chiamare la signora De Feo, che è la moglie di Fede, perché voglio capire la moglie di Fede se prende un po' le parti del marito su questa storia degli 8.000 euro. Diana De Feo, ex parlamentare, eccetera, eccetera. Se anche lei dice che insomma questi 8.000 euro sono appena sufficienti per il tenore di vita per campare di Emilione Nostro, eh. Vai, chiamiamo, vai. Diana? Sì? Ciao, sono Cruciani, come stai? Ah, ciao. Ti disturbo, cara? No, per niente. Senti, volevo farti due domande perché è successo un casino dopo quello che Emilio ha detto da noi sulla questione. No, ha detto che questi 8.000 euro di pensione non gli bastano, no? Mm-hmm. Ma è vera sta cosa che non riesce a arrivare alla fine del mese con 8.000 euro? Beh, sai, lui ha una casa a Milano che paga, non so, 2.500 da pagare, 3.000 euro di spese, certo. E quelli già sono andati, già sono soldi, certo, che vanno via. Certo. Non guida più perché ormai non è più un ragazzo, sì, e quindi c'ha anche un autista che deve, beh, certo, sostenere, sì, e quindi siamo già arrivati a 4.000 euro. Forse pure di più. Sì. Vive un po' tra un po' Roma, un po' Milano, un po' Napoli, cioè anche viaggi, spese, cose. Ma allora noi ci ha detto anche la badante, non so che altro. Ah sì, c'è una cameriera che fa, viene a fare le pulizie a casa, eccetera, che costa 700-800 euro. Ah non sì, che, certo. No, poi fare le bollette, scusami. Poi le bollette della luce del telefono e poi lui, siccome è solo e non, sì, non può cucinarsi da solo, essendo non più un giovanottino. Ah no, 85 anni. Allora va a cena a pranzo fuori, quindi alla fine del mese praticamente sono finiti, ecco, se c'ha delle spese. Ma non è che ti chiede qualche soldo a te, no? No, se c'è, qualche volta, una volta me li dava, adesso non me li dà più. Per cui questa gente che gli rompe le scatole dicendo 8.000 euro, vergogna, come fai a dire una cosa del genere? Certo, guarda, quando un signore come lui ha lavorato per 60 anni e più da giornalista. Non c'è dubbio. Quando uno ha fatto una vita strabiliante da inviato speciale nelle guerre. Sì. Quando lui ha rischiato la vita, perché ha rischiato la vita, beh, che ti posso dire, in Biafra, quando, beh, sì, è riuscito a entrare in Biafra che c'era la guerra e a portare indietro, tornare indietro con i prigionieri italiani, certo, perché fossero 12, è stato direttore del TG1 per 25 anni, ha lavorato con Mediaset, ha lavorato al TG4, non prendendosi mai un giorno di riposo, e adesso che potrebbe forse andarsene in vacanza, fare delle cose, la sua pensione non è, ma non è uno qualsiasi, è uno che in un altro settore, in un'altra situazione, dovrebbe avere anche di più, hai capito? Cioè tu dici non è granché 8.000, dici? No, ma non è granché, per me sono sufficienti. Sì, tu quanto prendi? Di pensione? Sì. Ah, io prendo 3.000 e tanti euro dei giornalisti, anche io ho 30 anni di lavoro. Certo, certo. In Rai, non è che me l'hanno regalato. E poi il Parlamento? Il Parlamento sono 1.200 euro. Ma 1.200, quante legislature hai fatto, scusa? Una. È già 1.200 euro per una legislatura? Togli le tasse, togli, mica sono piene queste cose, no? Vabbè, ho capito, però 1.200 euro per aver fatto una legislatura mi pare pure troppo, no? Dia. Che ne so, io però abbiamo pagato i contributi, Comunque è giusto il vitalizio, tu dici, 1.200 euro è giusto. Ma allora dipende, se tu, io ho lasciato un lavoro, io avevo un contratto in Rai. Per cui tu ci hai rimesso a entrare in Parlamento, dici? No, ci ho rimesso, ma certamente neanche ci ho guadagnato, hai capito? Però scusami, ma tuo marito potrebbe risparmiare qualcosa, no? Cioè, tu dici che proprio là va al pelo... No, perché non c'è... Allora, la sua vita è composta in questo modo, lui sta a Milano perché ha vissuto 25 anni. Cioè non può rinunciare a qualcosa, dice, è difficile. No, perché ha vissuto tutta la vita negli ultimi 25 anni a fare il TG4, mattina, sera... Non può rinunciare a niente, no, non può rinunciare. No, non può rinunciare, che faccio? Vengo a vivere a Roma, a Milano ci sono tutti gli amici, c'è la sua vita. Ma non c'è niente. Certo, ma come si fa? Ma gli vuoi, se lo sposti da là, gli togli il ristorante la sera, gli viene la depressione, ma come fai? Poi sta a Milano 2, quindi c'ha bisogno delle macchine, sì, quello che deve ma fare. Ma che scherzi, ma un uomo che ha vissuto così, non è che improvvisamente lo puoi mettere in mezzo a una strada. Cruciani, ma che dici? Comunque, questa gente che se la piglia con lui, come la definisci te? La gente che dice vergogna? La gente che non sa che... Quando uno è arrivato a 85 anni e ha vissuto rischiando la vita, facendo difficilissima. Vabbè, se rischia la vita, so fare i tuoi. Non può neanche chiudere casa a Milano, no. Deve risparmiare 3.000 euro, 2.000 euro di affitto. Beh, potrebbe andare in un appartamento più piccolo però, No, ma è quello sta a Milano 2, non vuole cambiare. C'è gente, se tu pensi... che Giuliano Amato prende 35.000 euro di pensione, non sono d'accordo, mettendo insieme tutte le sue pensioni. Tu dici comunque Emilio 8.000 euro è normale, è una ma ha pagato i contributi. Comunque la gente è incazzata con Emilio, non so, per questa cosa degli 8.000 euro la gente è incazzatissima. Vabbè, mi dispiace, anche io sono incazzata quando leggo le pensioni che prendono gli altri. Mi dispiace. Ma Emilio giusto ce la fa perché deve vivere a Milano da sola, deve avere una badante, deve avere un autista perché non guida più. Effettivamente questa gente qua che protesta per gli 8.000 euro non arriva alla fine del mese, c'è grande demagogia in giro, grande populismo. Ma hanno ragione, poveracci, lo capisco. Io lo capisco che... quello in banca, così. Dice che in banca dopo tutti questi anni non c'ha una lira, c'ha 15.000 euro. Non c'ha una lira, ha pagato soldi, ha pagato le cause. Gli avvocati, avvocati. Certo, Berlusconi poteva essere più generoso con lui. No, Berlusconi non ci ha proprio pensato di soccorrerlo. Di zero, l'ha abbandonato. Ma no, sai com'è Berlusconi, poi passa altre cose, poi siccome Emilio non gli ha chiesto niente, lui non ha dato niente. Beh, per una vita gli ha dato un sacco di soldi però. E ha dato quello che prendevano i direttori degli altri giornali, scusa, i direttori dei giornali. Vabbè, lui è stato particolarmente fedele, diciamo, no? Sì, e poi non solo. E speriamo che te devo dire, speriamo che questi soldi della pensione. No, io spero che ce la faccia a campare così come sta in questa organizzazione, che non è proprio da poveraccio, ma perché Emilio dovrebbe vivere una vita assolutamente diversa da quella che ha fatto? Perché no, assolutamente, quello deve vivere allo stesso tenore di vita. Ciao Diana, a presto, ciao, grazie, ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Pronto Radio Hitler? Ah no, la zanzara. Beh, vabbè. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Ragazzi, vi state sbagliando, il sindaco di Cerignola ha fatto benissimo ha fatto benissimo, sti ragazzini crescono male e questo fenomeno soltanto qui al sud si vede. Ragazzini di 8-10 anni che pensano di essere più mafiosi dei mafiosi reali. No ragazzi, ha fatto benissimo. Mille ce ne vorrebbero di sindaci così, mille. Il sindaco di Cerignola ha ragione e voi due siete delle merde. Quel sindaco ha fatto bene, ci vuole serietà coi bambini, serietà, serietà. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La zanzara. Allora, mi ha chiamato prima una delle persone che si occupano del trasbordo di Vittorione Sgarbi, dicendo che è pronta una bicicletta da regalare al bambino di Cerignola massacrato dal sindaco. Capito, Telese? Capito, Telese? Peppino! Peppino un cazzo! Prima abbiamo è parenzizzato, bene. Vai, ma non rompere i coglioni. Abbiamo sentito prima in grande esclusiva radiofonica il padre del ragazzo. E il padre del ragazzo. Come l'hai trovato? Uno scoop. Grazie a giornalisti locali. L'altra notizia. Bene, non mi ricordo. Ha detto che il bambino non può uscire più da casa. Che anche lui si vergogna di uscire. Il bambino è stato umiliato con quella parola trimone, che significa in sostanza sega, cioè sei una sega, e che vuole querelare il sindaco, che ormai le scuse non bastano più, perché il sindaco ha detto che a Rai 3 credo stamattina che viene da una famiglia di delinquenti, invece loro non sono affatto una famiglia di delinquenti, che si sente una merda perché è stato bocciato, ma è stato bocciato perché se ne sono occupati poco, perché hanno problemi molto importanti. No, non solo economici, perché fa il bracciante agricolo e dovresti vergognarti per quello che hai detto ieri. Va bene, dimmi, vai, che sei diventato della CGL. Allora ma che della CGL? È una cosa logica. Ma non mi piace che stai con i braccianti, io ti sto rieducando. Allora dimmi. Ma che c'entra che sto con i braccianti? Ma tutte queste mi sembrano... Scusami Giuseppe, siamo seri. Tutte queste sono reazioni normali. Arriva una pressione pazzesca, diventa un caso, tutti dicono ma che non lo quereli, voglio capire. Ma a me non mi interessa la querela. Cosa dicono loro del bambino? Il bambino sta male, non può uscire da casa perché lo pigliano per il culo tutti, perché trimone, dicono così, trimone, sta male, cioè nel senso si sente umiliato e lo pigliano per il culo i suoi coetanei, perché il video... Tra 10 giorni nessuno lo prenderà più per culo, dai, lo sai. Il video è diventato virale, i bambini ormai vanno col telefonino in mano e vedono tutto... E questo è diventato praticamente uno zimbello. Ma mi pare abbastanza chiara la cosa. Capito, non siamo negli anni 50, però, dai. Però, scusa Giuseppe, se tu facevi una cazzata a scuola, no? I miei genitori si incazzavano, d'accordo. Ovvio. I miei genitori, non il sindaco della città che per va caso, bene, senza conoscere la storia, passa da là. L'hai dipinto come un genio ieri. Cosa. L'hai dipinto, gli hai voluto dare la medaglia. Adesso ti rimangi la parola. Non mi mangio proprio niente. Ti dico, se tu facevi una cazzata a scuola, tipo, ma anche se prendevi una buca, un due di picche, ti prendevano per culo in classe per una settimana, tu non hai mai avuto sì, un ma due questo di non picche. È che ma lo piglia per il culo. Siamo presi in giro. Vabbè, ma adesso la stai ribaltando. Ragazzi, dai, Marco da Monza, dai. Siamo stati presi in giro. Marco da Monza, vai, Marco. Eccoci, sono qua. Dimmi. Cruciani, no, ho sentito questa storia qui. Cos'è che dice il Telese? No, io farei un appello pubblico per il papà di questo bambino. Chiamerei il professor Coppi. Addirittura il professor Coppi. Comunque, hai sentito prima questa testimonianza drammatica? Sì. Che no, ma mi ha toccato questo papà. Veramente, cioè, o Coppi o il nostro consulente, il professor Carlo Taormina. Ma forse meglio. Allora, questi sono penalisti, che c'entra? Dai, sì. No, ma tu dici per la querela? Dici per querelare il sindaco? Ma assolutamente sì. Ma questo ragazzo lo rovinano. Poi a scuola i bambini sono cattivi, quelli da lì lo distruggono. Cioè, questo bambino sarà distrutto, ma sicuramente. Tremone, come cazzo è? Trimone. Lo distruggono a scuola. Il diabete è salito. La moglie, che già ha dei problemi suoi, è peggiorata. Ma con quello ha detto il padre. Quello ha detto il padre prima. Questo bambino lo distruggono in classe. Marco, ciao. Luigi, Bologna, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. ascolta, io sono per il sindaco. Sì, no, ma quello, come il 90% delle persone che ci hanno chiamato. Però me lo fai spiegare? Sì, lo dimmi. Questo uomo qua, che per me è un santo, combatte l'ignoranza, ma vi rendete conto? L'ignoranza secondo chi? Non ho capito. Sto bambino parla in dialetto. E beh, allora parla che vuol dire? Ma pure il sindaco parla in dialetto. Vuol dire? Ma parla italiano, parla l'italiano come si deve. Deve imparare a parlare l'italiano, deve andare a scuola e deve essere promosso. Ma è una vergogna un bambino. Ma chi ha detto che deve essere promosso? Non ho capito. Come chi ha detto che deve? E cosa deve fare un bambino? Ma non ho capito. Ma deve fare? Essere c'è gente alle elementari. Senti, è una vergogna. Senti, è devi una stare. Vergogna. Ma sarà una vergogna, ma saranno i genitori che ti dicono una vergogna? Oppure è deve essere. Il sindaco è un santo. Ma il sindaco ma è voi siete matti, perdere. Ma voi siete matti, siete fuori dai coppi, siete matti. Ma sei matto devono, tu? Lo devono ringraziare quel sindaco lì, che fa quello che non fanno altri. Ma e se, non ma dire se il padre ha detto che si sente una merda per come... Hai sentito che cosa ha detto? Il sì, modo... sì, ho sentito. E allora? Si deve sentire una merda, a me dispiace perché si sente una merda, però le condizioni di suo figlio gliele ha date lui, non gliele ho date ma io. Ma ragazzi, ma uno, ma scusami un attimo, c'è gente che mi scrive, io ma sono te, ma fermo lì, conto... c'è gente che scrive, sono stato bocciato, che... fermo un attimo, sono stato bocciato al quarto ginnasio, ma ora sono professore all'università. Bene. Cioè c'è un sacco di gente che è stata bocciata e poi comunque è riuscita nella vita. L'umiliazione è una lezione della vita, Giuseppe, ma non so che è successo. Ah, l'umiliazione da parte del sindaco è una... Ma dai. Ma poi anche questo razzismo per cui siccome è figlio del bracciante deve essere ignorante. Ma tu sei matto. Ma chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Hanno avuto i figli che spaccavano il culo ai pastori, hanno preso. Ma chi ha detto lauree? Questo? Chi no, ha detto che deve essere? Ma io non ho detto che deve essere ignorante. No, ho detto che il padre era disoccupato, è stato disoccupato per tutto l'anno scolastico e i genitori hanno problemi fisici. Comunque sono cazzi loro se è stato bocciato. Non deve intromettersi il sindaco nella bocciatura di un ragazzo. Tra l'altro il padre ha detto che non si era affatto vantato, non si era vantato, ha semplicemente detto, mentre gli altri dicevano siamo stati promossi, lui ha detto io invece sono stato bocciato, non l'ha detto in maniera trionfalistica, non si è vantato di essere stato bocciato, questa è un'interpretazione. Allora questa vuol dire che è una notizia falsa e cambia il quadro. Beh, ma se, siccome nessuno l'ha smentita. No, ma Luigi continua a dire invece che i genitori dovrebbero ringraziare il sindaco, vero Luigi? Certo, ma assolutamente. Uno che si vanta da quello che ho sentito, perché io non ho visto niente. Uno che se io sono stato bocciato in dialetto. Secondo ma i sei, genitori, ma sei, secondo ma i genitori due sberle. Non io si è vantato. Sberle, ma chi? Chi? Un estraneo. No, se sono il genitore. Vergogna. Se sono il genitore ti do due sberle, ti prendo per le orecchie, sai? Ma il padre Pinocchio ha detto che loro avevano rimproverato il figlio. No, ha detto noi non l'abbiamo rimproverato, hanno semplicemente detto quest'anno è andata così, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che ma lo hanno. Giuseppe, ma scusa, ma devi dire ai genitori se devono rimproverare a un bambino? Ma che cazzo vuoi? Dai mio figlio. Ma io non lo so come reagirei, non lo so, non è stata bocciata fino adesso. Ma tu sai in una scuola elementare cosa succede per... Guarda, è difficile che boccino uno al liceo. È difficile, ma meno raro che gli dia una materia. È rarissimo che lo facciano alle medie. Ma per bocciare uno alle elementari vuol dire che questo bambino poverino va aiutato, va sostenuto. Ma saranno cazzi dei genitori, il sindaco non sapeva niente, non sa positivo, se non gli si piange addosso, se non si dice poverino sei vittima, allora fatti bocciare sempre. No, la vita lo ammazzerà. Ma saranno cazzi dei genitori, saranno cazzi dei genitori. Se non sarà bravo, se non sarà più bravo. Fermo lì. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La Zanzara. La Zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo due ore si ritorni alla cupa realtà. YouPorn o Zanzara? YouPorn o Zanzara? YouPorn. Beh, insomma, magari un po' più tardi YouPorn, eh? Allora, Luca Telese con noi in collegamento. No, devo dirti una cosa. Urla. Ho scoperto in queste ultime tue affermazioni che tu hai veramente un'idea tremenda di questo bambino, che siccome è figlio del bracciante può essere ignorante, se si vanta di essere ignorante va bene, diamogli pure un premio. Ma veramente non l'ho mai detto. E invece si salverà nella vita questo ragazzo se da questa umiliazione, perché le umiliazioni ti insegnano qualcosa nella vita, imparerà che si deve fare il culo, che deve essere più bravo. Ma tu non sai un cazzo di questo ragazzo, non sai niente, ma non sai niente, non sai nulla e parli, non sai nulla e parli. Quello che penso, non bisogna sentire il padre. Ma come non bisogna sentire il padre? Ma sei impazzito? Bisogna sentire la maestra, bisogna chiedere a questa maestra, no, non il padre. Ma lo faremo anche. Ma non è che giudico il padre, anch'io sarei fuori a grazia di Dio, lo conosciamo questo. Cucciolo mio ti proteggo. Ma non è cucciolo mio ti proteggo, sì, quello gli ha detto Trimone, che significa sì, sega. Ce l'abbiamo tutti. Senti questo Riccardo da Foggia, senti Riccardo da Foggia. No, senti Riccardo da Foggia. Ma perché l'avete bocciato questo bambino? Perché? Ma perché evidentemente non rendeva a scuola, perché era pippa a scuola. E allora bisogna salvarlo. Ma chi ha detto? Ma non è il sindaco lo deve rimproverare, Riccardo, vai, o comunque che deve dirgli qualcosa, no? O rimproverare o meno, Riccardo Foggia, vai. Buonasera, senta, io volevo dire a quel signor sindaco, che lo chiamano signore, ma ne dubito, che lui non si deve permettere minimamente di rimproverare il bambino e dire quella parola Trimone. Perché? Perché se fossi stato io il padre, avrei detto, amico mio, il Trimone me lo vieni a fare tu a me. Ma perché? Che vuol dire esattamente Trimone? Trimone, vai a fare le seghe. Cioè, così, che c'entra? Quello significa vai a fare un trimone. Quello gli ha detto sei un trimone, cioè sei una sega. Sei un trimone, sei una sega. Sei una sega. Io sono di un paese lì vicino, 15 chilometri da Cerignola. Sì, allora? E questi significati io li so. Lui non ci doveva permettere minimamente a rimproverare il bambino, perché figlio magari di povera gente che non l'ha saputo educare. Dipende da lui a educare. Ma non è nemmeno. Ma mi ha detto che il figlio è una persona, come dire, assolutamente educata, una persona non particolare. Cioè, non è che ha voleva vantarsi di essere stato bocciato nella maniera più assoluta. No, il sindaco, senza sapere un cazzo, ha cominciato a picchiare duro. Trimone, ti spezzo le gambe se non studi, eccetera, eccetera. Secondo come la vedo io sono un uomo di circa 70 anni. Non ci doveva permettere minimamente. Lui che dovrebbe essere una persona civile, sì. Perché chi dovrebbe fare il sindaco? Dovrebbero fare le persone per bene, non le persone come lui. Va bene, ciao Riccardo, ciao. Sì, arrivederci. Ciao. C'è gente che vuole fare collette contro il sindaco, raccolta ma di soldi sì, per portare in tribunale il sindaco, portare in tribunale, Ora sei un piccolo borghese sotto Beltroniano, perché Beltroniano avrebbe più giudizio di te. Aspetta, a proposito di tribunali. Ma che tribunale, che applausi? C'è È stato violento! La maggior parte delle persone è dalla parte del sindaco, che dici? Tutti contenti che finisca il macero, ora questo bambino verrà promosso, lo aiuteranno, faranno collette, gli salva il bambino da questa storia, che era fottuto! Ma che è fottuto per una bocciatura, che cazzo era dici? Fottuto. A proposito di tribunale, abbiamo qui praticamente il principe degli avvocati matrimonialisti, quello è il capo dell'associazione degli avvocati matrimonialisti, si chiama Gassani, Gianetto re di nome, buonasera! Buonasera a voi! Come stai? Bene, grazie. Senti, allo studio. Ho letto una cosa, caro Gassani, ma è vero che gli italiani, innanzitutto, se tu dovessi consigliare a qualcuno oggi, per carità, è anche, il modo in cui campi, se dovessi consigliare a qualcuno, ma oggi... Tu fai bene o male a sposarti? Cioè, uno che oggi decide di sposarsi fa bene o male? È un errore. Perché? Oggi sposarsi, sì, perché in effetti il matrimonio innanzitutto comporta una serie di oneri, spese, casa, mutui che per molte volte non si ottengono, ma soprattutto nel momento in cui si disgrega la coppia c'è un una casino. Nuova povertà, sì, è veramente un casino. Cioè, tu dovessi consigliare a qualcuno, diresti, guarda amico mio, fanne a meno, giusto? Ma io direi a mio figlio di non sposarsi, comunque di farlo in tarda età, ecco, farlo presto. Ti toglie il lavoro però questa roba qua, tu dici... Sì. Cioè, alla lunga... Con le unioni civili, vivremo anche con le unioni civili, perché sicuramente anche nelle coppie omosessuali ci saranno... grossi conflitti. Ah, tu dunque aspetti questo nuovo business praticamente, no? Sei in attesa di questo business. Io faccio un avvocato e non dobbiamo essere ipocriti, è evidente che questa legge sicuramente ha introdotto un nuovo lavoro per gli avvocati, anche per i magistrati. Capito, Telese? Cioè... si ampia il mercato, non è che puoi fare buonista in Puglia e cattivista a Roma. No, sto dicendo che ci saranno i divorzi omosessuali, per cui... E meno male! Assolutamente sì. No, ma io sono... Meno male, che dobbiamo fare? L'omosessuale se si becca una ciofeca se lo deve tenere tutta la vita. Ma che cavolo di roba? No, ma io sono d'accordo, figuriamoci. Sai Alfano! Come... Che c'è Alfano? Nuovo centrodestra. Ma che c'entra Alfano? Scusa, cosa c'entra adesso Alfano? Non ho capito. Hai capito cosa voglio dire? No, non ho capito Alfano. Basti questo, gli zandaristi sono più intelligenti. Alfano! Ma perché stai nominando Alfano? Che c'entra Alfano con i divorzi? No, ma senti, ma è vero, caro Gassani, che... ma che c'entra Giovanardi adesso? Lo sanno, i zandaristi lo sanno. Ma non è manco più nel nuovo centrodestra. Scusa un attimo, Gassani, ma è vero che ci sono un sacco di tradimenti omosessuali? C'è stato un boom di questi tradimenti? Sì, negli ultimi anni diciamo che con le nostre investigazioni abbiamo scoperto che nel 7% dei casi si scopre che lui o lei tradiscono con persone dello stesso sesso. Per cui ed è aumentato il numero? Sì. Sono aumentati questo tipo di tradimenti anche perché sono aumentate probabilmente anche le investigazioni. Ormai gli investigatori fanno parte proprio integrante dei nostri studi legali. Non appena c'è un sospetto di corna interveniamo subito con l'investigatore. Pure? E la gente ha i soldi da spendere per l'investigatore? Devo dire che in città importanti come Roma, Milano, Torino i soldi ci sono e quindi è chiaro che c'è gente che investe moltissimo, pur di liberarsi del parte o di trovarlo con le mani nella marmellata sono disposti a fare di tutto, più che nel penale. Ma scusa, e le omosessuocorna sono più traumatiche, no? Sì, è vero. Cielo mio marito è molto peggio di cielo mio cugino. Sì, sono più traumatiche, infatti molte volte quando io devo spiegare alla signora o al signore l'interiorità del parte di tipo omosessuale sto anche molto attento a come pongo la cosa, non faccio trovare nessuno lo studio. Com'è il formulario? Cara, è una tragedia. Una volta mi è svenuta una signora davanti perché era convinta che il marito fosse un playboy incallito e invece era praticamente l'amante del suo collega di lavoro. E come gli hai detto? Ho detto, signora, guardi, le cose cambiano, i costumi cambiano, si prepari, io ho queste fotografie, questa informazione. E la signora? La signora mi è svenuta davanti. Ma le foto le ha viste? No. Sì, ho visto le foto che si abbracciavano in macchina. Chiaramente, noi avvocati non diamo mai, ci mancherebbe altro giudizio morale, ho detto semplicemente adesso veda che cosa vuole fare, chiaramente poi la separazione era inevitabile. Devo dire che invece quando l'infedeltà è eterosessuale non sempre c'è la guerra, non sempre si fa causa, molte volte si accettano, le corna si accettano molto. Cioè molto le corna omosessuali si accettano di più? No, quelle eterosessuali si accettano, quelle omosessuali è la fine. Le eterocorna sono meglio delle omocorna. Ma sì, in teoria dovrebbe essere il contrario, perché lì non c'è un avversario, no? C'è semplicemente una situazione... proprio per questo, perché ormai c'è una risa. Scusi, avvocato. Che... Sì, prego. Scusi, avvocato, c'è anche una terza tipologia che noi abbiamo conosciuto ai tempi di Brenda. Cioè? Quando la corna è... Il corno è trans. Il corno è trans. Cos'è peggio? Le è mai capitato di dare una transessuale notizia? Transessuale, non ne parliamo. Ma perché è peggio? Non ho capito. Perché devo dire che le mogli rimangono inorridite davanti a questo. Adesso non so perché non sono psicologo, però davanti cioè, di fronte al transessuale rimangono inorridite. Sì, è come se fossi traito due volte. Ti sei sconfitta due volte. No, io sei sconfitta sono come psicologo. Donna perché ti arriva un uomo e ti frega. Guardate che la cosa è molto frequente. La cosa molto frequente. E tu consideri una chiavica che ti frega. Cioè avete scoperto un sacco di corna transessuali? Vabbè, quello sì. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma perché gli italiani divorziano meno degli altri? Ho letto l'altro giorno una statistica per ragioni economiche. Perché? Mario Cruciani, il problema è questo, che da Roma in su praticamente il numero di separazioni è 400 per ogni 1000 matrimoni, quindi sovrapponibile alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. Sì. E da Roma in su le separazioni e i divorzi sono pochissime, sono 180 rispetto a 1000 matrimoni, quindi abbiamo anche da questo punto di vista due Italie completamente diverse. Cioè nel sud sono 180 su 1000 matrimoni. Ogni mille, cioè le corna si fanno lo stesso, si tradisce lo stesso, ma in realtà non ci si separa. Però se arriva in tribunale molto meno frequentemente, perché nel sud, in effetti, tolta Napoli, Palermo e Catania, per le grandi città, sono piccoli centri, nei piccoli centri la gente evita le separazioni, cerca di evitarlo, poi c'è anche una componente religiosa, componente sociale, ci sono tante cose, perché altrimenti non ci sarebbero altre chiavi di lettura, ma le infedeltà nel sud sono identiche a quelle del nord statisticamente. Comunque il capo degli avvocati matrimonialisti dice dell'associazione sì, è evidente, dice non ve sposate, raga, non ve sposate perché ma è un casino. Io ho scritto il libro per prezzi sposi spiegando che molta gente si sposa al buio, non sa niente dell'altro, tre vabbè, mesi, perché arriva a 40 anni, oppure ci si sposa per procura, ci si sposa con le agenzie internazionali di matrimonio. Sì, comunque ragazzi, non ve sposate. Giuseppe, dimmi. Giuseppe, devo chiedere una cosa all'avvocato, perché sì. Secondo me questa cosa deriva anche da, lo so perché ho la famiglia lì, il fidanzato in casa, il bisogno ancora forte del matrimonio. Se a 30 anni c'è una ragazza che è stabilizzata, arrivano tuo padre, tua zia, tua nonna e ti dicono sposala, sposala. Ma questo dove? Al sud dici? Al sud, ti faccio un esempio, abbiamo fatto un'inchiesta di Matrix, una delle più divertenti, sul business in crescita del finto matrimonio, cioè di coniugi fidanzati che per soddisfare la famiglia comprano un finto matrimonio col finto abito bianco e addirittura il finto prete. Ma esistono ancora i vecchietti che si sposano le cose? Sì, tantissimo. Ma voi considerate che il matrimonio sta scomparendo dall'Italia, perché siamo passati dai 500.000 matrimoni del 70 ai 180.000 dell'anno scorso, quindi l'istituto matrimonio è finito. Cioè, ormai c'è, sono finito. Di... finito. C'è, pensate che cosa... Sì, ma oltre a questo, ma gli italiani sono 60 milioni adesso, prima erano addirittura di meno, ma il numero dei matrimoni secondo l'Istat è finito. Ufficiali, è giusto, tu che sei dire... veltroniano, spiega cos'è la mentalità. Ma sei veltroniano tu. Ciao avvocato, ciao. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Mario Treviso, vai. Mi piace sta cosa. Vai. Pronto? Dimmi pronto, Mario. Pronto, buonasera. Io sono d'accordo con Luca Telese. Cioè? Io lo apprezzo perché ha detto la cosa più giusta di questo mondo. Cioè che cosa? Non ho capito. Allora, secondo me, secondo il mio punto di vista, il sindaco ha fatto ha esordito questa cosa con la scolaresca. E quindi, secondo me, è una cosa bonaria. L'ha detto in un modo bonario. Bonario, ma l'avete sentito o no? Ma dov'è? Io mi ricordo. Ascolti. Io mi ricordo, mia madre, io ho 60 anni, mia madre quando avevo 10 anni e andavo via da casa, stavo via magari mezza giornata, mia madre quando arrivavo a casa mi diceva dove sei stato fino adesso? Guarda che ti spezzo le gambe, ma era un modo di dire... Ragazzi, ma era tua madre, era tua madre, era tua madre, non il sindaco. Il sindaco, ma il sindaco può fare benissimo. Ma che pesci, quello c'ha i genitori. Bravo. Ma voi siete matti, ragazzi. Cosa. È la cosa. Comunque fermi tutti che devo chiudere. La notizia quella... come chiudere? Devo chiudere. La notizia di Fermo, di quello picchiato a sangue ucciso... che aveva reagito a insulti razzisti, io non voglio dire niente perché l'ascoltatore che è intervenuto prima è una vergogna perché era contento della morte di questo, però c'è stata una vera e propria rissa, sembra, cioè questo qua è stato insultato, ha reagito pare prendendo un palo in mano, c'è stata una rissa, quello poi è stato picchiato a sangue ed è morto, cioè c'è tutto un iter che deve essere analizzato, dopodiché quello è stato ammazzato e per carità, però non è che ha reagito a insulti razzisti e poi è stato picchiato a sangue, anche quello ha reagito prendendo un palo, sembra, eccetera eccetera eccetera. A demen, a domani. Agrucia, certo che sei proprio uno stronzo, Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.